amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo, il nostro libro di catechesi, il falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Come già vi ho spiegato, questo è un libro contro Satana, un libro che ha lo scopo, la luce naturalmente della rivelazione, cioè dalla parola di Dio e dell'insegnamento della Chiesa, di scoprire questo essere misterioso che si nasconde e che insidia la nostra vita, la insidia in un modo mortale, come ogni veleno che viene da un serpente velenoso può portare alla morte. Così questa serpe infernale punta naturalmente alla rovina eterna delle nostre anime, quindi è il più pericoloso dei nemici. Il suo pericolo consiste nel fatto che si nasconde e si presenta, si manifesta sempre proponendo il male in forme seducenti, come se fosse un bene per noi, e in questo modo ci avvolge nelle sue spire, ci lega con le sue catene. Noi adesso cerchiamo di smascherare, dopo aver spiegato nel capitolo terzo l'origine del maligno, cioè come ha avuto origine Satana, noi adesso cerchiamo di svelarne la natura di Satana, chi è Satana, la sua realtà profonda. E questo lo facciamo naturalmente alla luce della parola di Dio. Abbiamo detto appunto che Satana, nella sua natura profonda, è animato da una gelosia, da un'invidia e da un odio inestinguibile nei confronti di Dio, in quanto vuole essere lui Dio al posto di Dio. Non accetta la sua dimensione di creatura, non accetta la sua dimensione di dipendenza, e quindi si erge contro Dio, contesta Dio e cerca di ostacolare in tutti i modi i piani di Dio. Noi abbiamo visto, soprattutto nella sua sete di adorazione, cioè nella sete di adorazione che Satana ha, abbiamo colto quello che è il movimento profondo della sua anima, che è di contestazione della divinità, il voler essere lui Dio al posto di Dio. E questa forma di adorazione che Satana desidera lo abbiamo colto in alcuni passaggi biblici, innanzitutto nella tentazione dell'Eden, quando Satana cerca di spingere Adamo ed Eva al male, al peccato, dicendo, insinuando, se ne mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se sarete voi, se deciderete voi di stabilire ciò che è bene e ciò che è male, diventerete come Dio. Ecco, spinge l'uomo a sostituirsi a Dio nel definire e nel decidere ciò che è bene e ciò che è male. Sarete come Dio. Ecco, qui Satana dà del suo. E poi abbiamo visto anche nelle tentazioni di Gesù nel deserto, quando appunto il Satana, il grande falsario, si avvicina a Gesù e gli dice tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ecco, anche qui il falsario, cioè falsifica le carte in tavola. Noi poi dedicheremo tante pagine del nostro libro proprio a vedere l'opera del falsario, come falsifica la realtà. Anche qui la falsifica perché sappiamo benissimo che il mondo è di Dio, ma lui lo attribuisce a se stesso e si presenta come benefattore, essendo lui invece il nemico dell'uomo. Dunque noi abbiamo già visto, cari amici, questo aspetto del maligno, che è l'odio contro Dio, che è la sua sete di adorazione. Adesso vediamo, cari amici, un altro aspetto, sempre e comunque del rapporto di Satana con Dio, che è la strenua opposizione di Satana nei confronti dei piani di Dio. Cioè, se noi guardiamo la storia della salvezza, così come la Bibbia ce la testimonia, e come anche la storia della Chiesa ce la testimonia, se noi vediamo la storia della salvezza, noi vedremo che nella storia della salvezza si realizza il piano di misericordia e di amore di Dio nei confronti dell'uomo. E Paolo cosa dice? Che tutte le cose sono state create per mezzo di lui, cioè per mezzo di Cristo e in vista di Cristo. No, quindi il progetto della creazione, della redenzione, è quello di rendere partecipi della natura divina altre creature, le creature appunto angeliche e le creature umane, e quindi insieme all'uomo di rendere partecipe della gloria di Dio anche l'intero universo. Questo è il piano, il mistero nascosto da tutti i secoli, dice Paolo. E cioè, perché Dio ci ha creato? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e per godere nell'altro in paradiso, dice il Catechismo di San Pio X, in forme molto semplici, no? Quindi Dio ci ha creato perché non ha voluto tenersi gelosamente per sé la sua divinità, la sua gioia, la sua infinita felicità, ma ha voluto rendere partecipi della sua divinità, della sua gioia, della sua grandezza, anche altre creature, che sono appunto gli angeli e gli uomini. E naturalmente quando si parla degli uomini si parla di tutto l'universo, di cui l'uomo è il culmine, è il punto di arrivo. Allora, noi vediamo che in questo progetto di Dio c'è un oppositore, ed è il maligno. Fin dall'inizio il maligno si oppone al piano di Dio. Noi lo vediamo questo nel paradiso terrestre, dove l'uomo è creato da Dio in grandissima dignità, elevato in grazia all'amicizia con Dio, dotato di doni straordinari come l'immortalità, l'assenza del dolore, l'integrità, cioè la perfetta armonia fra anima e corpo, la sapienza. Ebbene, Satana si oppone, cerca di intralciare il piano di Dio e col consenso dell'uomo rovina il piano di Dio. E noi vedremo come lungo tutta la storia della salvezza Dio cerca, e naturalmente ci riesce, a portare a termine il suo piano, che è quello di rendere gli uomini partecipi della natura divina, ma Satana si oppone strenuamente a questo piano. Quindi Satana è colui che odia Dio, che pretende l'adorazione al posto di Dio e che si oppone strenuamente ai piani di Dio. E questo, cari amici, avviene non soltanto a livello della storia della salvezza in generale, ma nei confronti della nostra vita in particolare. Cioè, noi vediamo, per esempio nel Vangelo, no, che il seminatore semina il seme e subito il nemico di notte semina la zizzania. Il seminatore getta il seme della parola di Dio nel tuo cuore ed ecco che il maligno viene a rubarla. Cioè anche a livello personale, a livello individuale, Satana cerca di sviarci dalla missione che Dio ci dà, cerca di intralciare i progetti che Dio ha su di te, cerca di impedirti le grazie, e quando non puoi impedirle, cerca di far sì che tu non corrisponda, oppure cerca di non fartele vedere, cerca di fermarti, bloccarti sulla via della santità. Quante volte la leggenda della pace dice che appunto Satana ci ostacola continuamente sulla via della santità. Quindi questa opposizione ai piani di Dio avviene non soltanto a livello della storia della salvezza, ma avviene nei confronti delle singole anime. Cioè Satana cerca di bloccare continuamente i piani di Dio, i piani di misericordia e di santità che ha nei tuoi confronti. E cerca di distruggere le grazie, di impedire le grazie, di impedire che fruttifichino. Molte volte cerca di non fartele vedere le grazie che hai avuto. Ed è tremenda questa sua azione per sollevare polveroni affinché tu non sollevi gli occhi al cielo e vedi di quanta luce, di quanta bontà Dio ricopre la tua vita. Allora vediamo, siamo a pagina 29 del nostro libro, vediamo, cari amici, questo aspetto che è uno dei più di quelli che più possiamo verificare, di opposizione a Dio da parte del demonio, opposizione ai piani di Dio, sia a livello della storia della salvezza universale, sia a livello della nostra vita personale. Satana è un'espressione ebraica, Satana è un'espressione ebraica, Satan, no? Che significa l'avversario. Quindi se qualcuno mi dicesse cosa vuol dire Satana? Satana vuol dire l'avversario. L'avversario. Egli è per eccellenza il nemico di Dio. La parola diavolo invece viene dal greco e significa colui che intralcia, che si mette per traverso e divide. Quindi ecco l'etimologia dei due nomi. Satana vuol dire l'avversario. diavolo vuol dire colui che si pone per traverso. Invece il demonio è un nome che viene dal greco, ma è un nome piuttosto ampio, perché si parla di demoni, si parla di demoni, si parla di spiriti della natura, e non ha, la parola demonio, nella sua origine etimologica, non ha una caratterizzazione molto precisa, anche se poi da noi è sinonimo di diavolo. Invece le due espressioni Satana e diavolo hanno una etimologia molto precisa. Satana vuol dire l'avversario, diavolo vuol dire colui che intralcia, che si mette per traverso. I due vocaboli si completano a vicenda, cioè Satana e diavolo, si completano a vicenda nel mettere in evidenza l'attività del maligno. Egli odia Dio, l'avversario, e cerca di impedire e di distruggere con tutte le sue forze i suoi piani di salvezza, cioè colui che si mette per traverso, e di amore misericordioso nei confronti dell'uomo. Satana sfrutta fino in fondo la permissione divina di operare sulla terra per sedurre le anime, sviandole dalla via di Dio, per poi impadronirsene e farsene loro sovrano. Quindi la sua attività consiste nel bloccare i piani di Dio di salvezza nei confronti del mondo, e soprattutto per quanto riguarda le singole anime, egli sfrutta la permissione divina di agire fino alla fine del mondo per sedurre le anime, per sviarle dalla via di Dio, per impadronirsene e farsene loro sovrano. In tutta la storia della salvezza, adesso vediamo l'aspetto, diciamo così, dell'attività di Satana nella storia della salvezza. In tutta la storia della salvezza, dal paradiso terrestre fino alla seconda venuta di Cristo, egli è presente e attivo. Egli è presente e attivo. Fin dall'inizio. Fin dal paradiso terrestre. I grandi appuntamenti di Dio lo trovano sempre pronto e infaticabile. Si direbbe che non riposi mai. Quello che colpisce, cari amici, del maligno è che non manca mai agli appuntamenti di Dio. Noi agli appuntamenti di Dio manchiamo, ma Lui non manca mai. Vedete, appena c'è il nuovo Adamo e la nuova Eva, Lui è là, il serpente, pronto a tentare. Appena arriva il nuovo Adamo, Lui è là, cari amici, pronto a tentarlo. Questo che è vero per i grandi appuntamenti della storia della salvezza è anche vero per noi. State tranquilli che Satana, nei momenti che contano, nei momenti decisivi della nostra vita, lui è al nostro fianco, per sviarci, per bloccare la grazia di Dio nei nostri confronti. Mi viene in mente in questo momento, naturalmente io nella spiegazione del nostro testo faccio riferimenti, faccio anche altri riferimenti che non siano la Bibbia o la dottrina del Magistero, mi viene in mente un messaggio dalla Regina della Pace, dato a Miriana nell'87, dove la Regina della Pace a Međugorje dice che laddove va mio figlio e Dio, dice la Madonna, subito là ci raggiunge Satana. Cioè, è incredibile come nei grandi appuntamenti di Dio lui è sempre presente, è sempre pronto, arriva qualche minuto prima, cari amici, ma in ritardo. Ed è infaticabile. E qui c'è un mistero che mi ha sempre molto colpito, cari amici. E questo riguarda non solo il demonio, ma anche i suoi seguaci, no? E cioè che i seguaci del demonio molte volte sono infaticabili nel fare il male. Voi pensate quanto male c'è nel mondo, per fortuna che c'è tanto bene. Ma gli operatori di iniquità, guardate che molte volte colpiscono perché sono infaticabili nel fare il male. C'è uno zelo anche nel fare il male. È uno zelo strano, lo zelo animato dall'odio. Lo zelo animato dall'odio. E Satana è infaticabile perché il suo odio è inestinguibile. Questo dà molto da pensare, perché molte volte noi che dovremmo essere animati dall'amore e l'amore dovrebbe essere un motore ben più forte del motore dell'odio, molte volte noi che dovremmo avere le motivazioni dell'amore per fare il bene, siamo meno zelanti nel fare il bene di molti seguaci del maligno nel fare il male. Satana è puntuale a tutti gli appuntamenti di Dio ed è pronto per distruggere, è infaticabile nel pensarle tutte. È inesauribile nel trovare, nel cercare dei pertugi per entrare. Giorno e notte pensa in continuazione come poter tendere in side un'anima e farla sua. E quello che colpisce è che come lui sono i suoi seguaci, anch'essi inesauribili, infaticabili nel fare il male. Ecco forse cosa vuol dire Gesù quando dice che i figli delle tenebre sono più accorti dei figli della luce. Sono più accorti e anche più infaticabili. C'è questo aspetto che colpisce il desiderio di creare un regno alternativo a Dio. Il desiderio di farla a Dio, di opporsi a Dio. C'è una forza, cari amici, che viene dall'odio. Ed è la forza satanica. Quindi i grandi appuntamenti di Dio non lo trovano sempre pronto e infaticabile. Si direbbe che non riposi mai. Satana non va mai in ferie. Non c'ha il riposo settimanale. È un po' simile all'uomo moderno. Si direbbe che non riposi mai. No, ci sono degli uomini che per far quattrini non riposano mai. C'è qualcosa di satanico in questa voglia della società di togliere i giorni di festa. È la sete del denaro, inestinguibile. Pur di accumulare non riposerebbero mai. C'è qualcosa di satanico in tutto questo. Si direbbe che non riposi mai. Come che i negozianti che tengono i negozi aperti 7 giorni alla settimana, no? Sono a imitazione del loro padrone Mammona. Si direbbe che non riposi mai. La sua astuzia consiste nello sfruttare fino in fondo la pedagogia divina, che è sempre molto rispettosa della libertà umana. Ecco, siccome Dio ci ha dato la libertà, la sua abilità consiste nel far appello alla nostra libertà per indurci sulla via del male. Naturalmente lo fa non proponendoci il male in quanto tale, ma proponendoci il male sotto forma di bene. Ecco il falsario. Conoscendo perfettamente l'uomo, la cui libera volontà ricerca spontaneamente il bene e la felicità, lui lo svia presentando il male sotto forma di bene. Laddove Dio opera, Satana non manca mai all'appuntamento per impedire che i piani di misericordia si realizzino. E quindi, cari amici, siccome Dio vuole avere il nostro amore col nostro libero consenso, ecco che Satana approfitta di questa situazione per fare concorrenza a Dio e fare anche lui le sue proposte all'uomo, ma lo fa da grande esperto in oggetti falsi, in quadri falsi. Ti presenta la via del male come se fosse la via della felicità. Questa è la sua grande astuzia. Siccome Dio intende non importi il bene, ma proportelo, e Dio intende ottenere il tuo consenso libero, perché vuole che sia un atto d'amore, il demonio approfitta di questa situazione dell'uomo sulla terra per insinuarsi e fare le sue proposte. Lui stesso ti propone la felicità. Solo che mentre Dio ti propone la vera felicità, che si raggiunge attraverso la via stretta, Satana ti propone la falsa felicità, che si raggiunge per la via larga. Voi vi chiederete, cari amici, ma perché molte volte sembra che Satana abbia più successo di Dio? No? Perché? Ma semplice, cari amici, perché Dio propone la felicità nella verità, cioè Dio ha legato la felicità alla croce, alla via stretta. la felicità non è a buon mercato. Satana ti propone la felicità invece per la via larga, ma ti propone la falsa felicità. Per la via larga gli uomini abboccano. Sono come i pesci, no? Che vedono dei bocconcini prelibati e non pensano che appunto perché sono prelibati sono attaccati a un'esca. Le felicità di Satana, cari amici, sono le felicità dei saldi. Tu vai ai saldi, ma guarda che la roba, la merce pregiata, non te la danno i saldi. Ai saldi vi danno la robaccia, ricordalo. Così lui ti presenta la via larga, ti dà la felicità a basso prezzo, ma non è felicità, è qualcosa che ti lascia l'amaro in bocca. È un'esca con la quale lui è esattamente un'esca, come quella che vi è data ai pesci, con la quale lui ti prende all'amo e diventi suo. Ed è infaticabile in questo. Sfrutta fino in fondo il fatto che Dio ci ha dato la libertà per ottenere il consenso per sé. L'esordio della storia umana, vi dicevo appunto che Satana non manca mai all'appuntamento. Infatti l'esordio della storia umana, l'inizio della storia umana, cari amici, vede la sua grande vittoria. Perché nel paradiso terrestre c'è la grande vittoria di Satana, non si può negare. Come nel deserto c'è la sua grande sconfitta con Gesù, così c'è la sua grande vittoria nel paradiso terrestre. L'esordio della storia umana vede la sua grande vittoria. Riesce con l'abilità suprema a distruggere il disegno di amore che Dio aveva realizzato per l'uomo. Che cosa poteva esigere di più l'uomo da Dio? Cosa poteva avere di più? Dopo aver ricevuto la sua intima amicizia e tutti i doni di grazia che facevano della sua esistenza qui sulla terra un'esperienza di autentica felicità, in attesa della visione beatifica. Cosa poteva aspirare di più l'uomo nel paradiso terrestre avendo tutto, l'amore di Dio e doni incredibili, come l'immortalità, l'assenza del dolore, eccetera, eccetera. Eppure, guardate cari amici, Satana riesce a convincerlo che Dio non gli ha dato abbastanza, perché lui, Dio, sarebbe geloso dell'uomo. Pensate come l'ha cantata bene. Pensate come l'ha confezionata bene. Pensate come ha ingannato bene i progenitori. Li ha convinti che Dio non ha dato loro abbastanza perché lui, Dio, sarebbe geloso dell'uomo. Cari amici, guardate che questa azione Satana la fa oggi attraverso i suggeritori che attingono da lui magari senza saperlo, sono i mass media, sono i falsi maestri. No, di oggi, di cui è pieno il mondo, che te la contano bene. Cosa ti raccontano? Ti raccontano che se vuoi essere felice devi fare a meno di Dio. Non ti dà la felicità a Dio, Dio ti promette la croce. Se vuoi essere felice devi prendere in mano tu la vita, decidere tu ciò che è bene e ciò che è male. Se vuoi essere felice devi goderti la vita. Il denaro, il potere, il piacere e tutto il resto. Quella è la felicità. Quella è la felicità. Capito? E te la do io la felicità, non Dio. E voi sapete quanti maestri, quanti professori ci sono oggi in quella scuola del mondo di cui Satana è il preside e il ministro della pubblica istruzione. Ecco, quello che lui ha fatto nel paradiso terrestre, incantando Adamo ed Eva e spiegando ad Adamo ed Eva che Dio non aveva fatto abbastanza per loro perché Dio era geloso di loro, che Dio non aveva dato loro la felicità, così fanno oggi. Così fanno oggi i discepoli di Satana, che insegnano a noi uomini che con Dio non c'è felicità, con Cristo non c'è felicità, col cristianesimo non c'è felicità. La felicità ce la danno loro, ce la dà il maligno la felicità, hai capito? Lui ci rende felici. La vita senza Dio rende felici. E qui torniamo al paradiso terrestre, perché guardate che il paradiso terrestre è una grande non so come chiamarlo, è una realtà che viene poi vissuta continuamente nel corso della storia. Quel dramma là, che è un dramma veramente accaduto, non è che sia accaduto solo allora, accade nella vita di ogni uomo continuamente. E accade in un modo, direi, molto evidente anche nel nostro tempo. Vedete quindi come fa il maligno? Insinua nell'uomo il dubbio su Dio. Gli risveglia desideri smodati, lo spinge alla disobbedienza e realizza così il suo obiettivo di rovinare il progetto del creatore. Vede che azione subdola, che azione perfetta sotto il profilo della... perché c'è anche una perfezione del male. E ci sono degli uomini che nell'escogitare il male sono perfetti come il maligno. Anzi, forse il maligno potrebbe imparare qualcosa da loro. Insinua il dubbio, risvegliano desideri smodati, spingono la disobbedienza della legge di Dio e portano l'uomo alla rovina. Vedete quindi con quale puntualità, perversità, preparazione Satana arriva all'appuntamento del paradiso terrestre. Ma quando il nuovo Adamo, cioè Gesù Cristo, si profila all'orizzonte, Satana scende subito in campo personalmente, cari amici, senza nascondersi, è decisissimo a lanciare la sfida. Guardate come il male è pronto ad agire, come il male è tempestivo nell'azione. Laddove si espande il profumo della santità, e questo vale per Gesù Cristo, per la Madonna, ma anche per tutti noi, cari amici, laddove si espande il profumo della santità, Satana accorre perché il suo regno viene minacciato. Ecco perché molte volte anch'io mi raccomando, raccomando la nostra radio, alle preghiere di Radio Maria, raccomando la nostra radio alle preghiere degli ascoltatori, perché è chiaro che questa radio dà fastidio al maligno. E la radio di Maria, figuratevi quante ne ha pensate, quante ne pensa e quante ne penserà ancora. Quante volte ha cercato di distruggerci. Figuratevi se ha dormito sonni tranquilli. E sempre sente subito l'odore di santità a lui. Lo sente al volo e parte in quarta per spargere l'odore di zolfo. Quindi laddove si espande il profumo della santità, Satana corre perché il suo regno viene minacciato. La venuta del Figlio di Dio sulla terra è il momento da lui tanto temuto. È giunta l'ora in cui la potenza dell'inferno, cioè la sua potenza, è messa in discussione. I demoni sanno benissimo che non sono di fronte a un semplice profeta, ma a colui che ha il potere di cacciarli col semplice cenno della sua volontà. Quali profeti, cari amici? Dicono che Gesù sia un profeta, ma quali profeti hanno cacciato i demoni? Neanche il Battista aveva cacciato i demoni. Ma quando arriva lui, i demoni sanno benissimo chi è. Sanno benissimo che la potenza dell'inferno è messa in discussione. I demoni sanno benissimo che non sono di fronte a un semplice profeta, ma a colui che ha il potere di cacciarli col semplice cenno della sua volontà. Sanno benissimo che hanno di fronte Dio fatto uomo. Eppure, cari amici, non disarmano neanche di fronte al Verbo incarnato. E Satana tenta ogni strada per impedire l'opera della redenzione. Si oppone in tutti i modi a Gesù Cristo. Poi la pensa, è lui che architetta tutto il progetto della crocifissione di Cristo, della sua eliminazione, del tradimento di Giuda, eccetera. La vita di Gesù, specialmente nei 3 anni della sua missione, è stata sottoposta prima al fascino della seduzione, le 3 tentazioni di Satana nel deserto, e poi è stata sottoposta alla violenza della persecuzione, cioè la passione. La sua passione sarebbe incomprensibile senza la regia del principe delle tenebre. Vi sto, cari amici, mostrando come sia strenuo nell'opporsi ai piani di Dio. Abbiamo visto l'astuzia, la perversità, la tempestività, la capacità di sedurre che ha mostrato nel paradiso terrestre col primo Adamo, dove riuscì vittorioso. E non ha paura di affrontare il secondo Adamo. Appena arriva sa che il figlio di Dio fatto uomo e subito lo affronta decisamente. Se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Lo affronta con un'astuzia ancora superiore con cui riuscì ad affrontare e a vincere il primo Adamo. Ma vedo, cari amici, che il nostro tempo è finito e proseguiremo la prossima volta nel mostrare come, lungo tutto il corso della storia della Chiesa, Satana è pronto e presente con la sua astuzia, con la sua malizia, con la sua forza instancabile per tendere insidie. Perché tutto questo? Perché è animato da un odio inestinguibile nei confronti di Dio, perché è geloso dell'uomo e gli punta a essere Dio nel suo piccolo regno, quel regno appunto che si chiama inferno. Ma proseguiremo su questa avversità radicale di Satana a Dio e in questa sua indomita volontà di opporsi ai suoi piani, proseguiremo nel nostro prossimo appuntamento. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso il Falesario, a cura di